dicevo, compagni, non è tutto valor. Il proprio vanto del vincitore è il moderar se stesso, né incrudelir sull'inimico oppresso. Con mille, mille abbiamo il trionfar comune, il perdonar non già. Questa di Roma, domestica virtù, se ne rammenti oggi ciascun di voi. Ogni nemico risparmiate la vita e con più cura conservate in Catone l'esempio dei eroi. A me, alla patria, all'universo, a voi, Cesare non temerne, e già sicura la salvezza di lui. Corre se le tue cenna per le schiere fedeli. Oh Cesare, è via vero che mi largo gli stintoli, mi dice il Catone. Eccelsi frutti del tuo valor son questi, il più dell'opera ti resta ancora. Via quella ciara in pugno, la disperata figlia unisce il padre. Oh Marzia, non temer, vivrà Catone, il libero vivrà. Fedele amico, più che mai ne sarà. Io giuro adesso di nunziar, se tu vuoi, l'allore stesso mi torna in vita. Ogni speranza io perdo, ma se giova la patria, io son contento. Emilia, io giuro i nomi. Cura di vendicarci, assai lontano forse il colpo non è. Per pace altrui affretti il cielo, e quella man che meno credi infedele, quella ti squarci il seno. Compatisco il suo duol, tu marzialmente la mia fede patto tempi, prendimi il genitore, e allora poi sperar mercè, dall'amore mio tu puoi. Arbitro del cor mio, destino.